Palla Spicchi di Dario Ricci. Buonasera e ben ritrovati anche da Roberto Scaltritti in regia e da Giorgio De Luca in redazione. Prima giornata di ritorno e in attesa di vedere che cosa farà Cantù, che intanto è in vantaggio di 7 punti, 29-22 quando siamo a metà del secondo quarto a Venezia, e domani poi Siena a Reggio Emilia. Viene da dire che insomma la giornata allunga un po' la classifica, perché le big o le presunte tali o le certificate tali vincono e quindi si allontanano un po' in fuga in testa. Appunto alla classifica vince Varese, vince Sassari a Biella, passa Milano a Caserta, vince pur soffrendo Roma. Crisi nera invece per Bologna, che cade in casa anche contro Cremona in volata 93-92, e quindi per le V nere, se non sbaglio, vado a memoria, il sesto KO consecutivo. Crisi nera sui bassi fondi per Avellino e Biella. Questi i risultati: Juve Caserta è a 7, Emporio Armani Milano giocata a mezzogiorno 69-78, Saie 3 Bologna, Vanoli Cremona 92-93, Cimberio Varese, Enel Brindisi 83-71, Angelico Biella Banco di Sardegna Sassari 72-100, Acea Roma Scavolini Banca Marche Pesaro 65-64, 95-71 per la Sutor Montegranaro sulla Sidigas Avellino, e Cantù, come dicevamo, in vantaggio a Venezia quando mancano 4:38 alla fine del secondo periodo di gioco per 32-24, per una classifica che al netto della partita in corso e domani appunto della sfida tra Montepaschi Siena e Trenkwalder Reggio Emilia vede Varese in testa con 28 punti, Sassari a quota 26, Siena, Cantù e Roma 22, Milano 18, Brindisi e Reggio Emilia 16, Caserta e Venezia 14, 12 punti per Bologna e Cremona, 10 per Montegranaro, Avellino ad 8 punti, chiudono Biella e Pesaro a quota 6. E allora partiamo subito con i nostri collegamenti. Andiamo a Roma da Fabrizio Fabbri per questo bel successo della Cea Roma 65-64 su una Scavolini che dopo essere tornata alla vittoria domenica scorsa dimostra comunque, Fabrizio, ben trovato, di aver cambiato marcia, perché ha fatto sudare e non poco i capitolini. Assolutamente, come ha detto Marco Galvani nel post partita, Pesaro è una squadra differente, avremo poi modo di sentire adesso proprio il coach della CEA Roma, l'innesto dei nuovi giocatori di Markowski ha cambiato molto, Roma però ha portato via una partita molto difficile, di nuovo problemi di rotazioni, fuori Lorenzo Tercole, da Gunduro ormai si fa, Taylor è recuperato ma dopo due settimane difficili, e una squadra oggettivamente stanca. Questo, Calvani, rende ancora più merito alla vittoria di oggi? Assolutamente sì, sono sorpreso di come i ragazzi riescano a trovare risorse e energie che avrebbero mille giustificazioni nel non avere. Anche stasera diversi giocatori, primi da tutti Goss, che è stato 39 minuti in campo quando ne ha fatti 41 a Montegranaro, avrebbe avuto bisogno di una rotazione, di un riposo per essere più fresco, probabilmente come in altre occasioni tiri da liberi li avrebbe messi, cosa che ha sbagliato stasera, e anche i due tiri liberi finali non sono certo nelle corde di Phil Goss, quindi è un sintomo di una stanchezza, però siamo soddisfatti. Tambone è la terza partita che va in campo giocando minuti importanti, stasera 18, ha cominciato con Biella quei 10 minuti che poteva sembrare insomma che non dovesse giocarli perché c'erano altri compagni, ma siccome io guardo lontano e so nella difficoltà di non avere da Gunduro che ho bisogno di guadagnare un giocatore in più, per fortuna, perché domenica a Montegranaro senza Jordan Taylor, questa domenica senza Ed Ercole, se non avessimo avuto Tamboni che ci dava quei 18 minuti non solamente in un'ottima difesa contro Stičević ma anche in attacco, probabilmente la partita avremmo persa. Perfetto, ringraziamo Galvani, il quinto posto è blindato, abbiamo Nicola Alberani qui, secondo me sta guardando qualcosa di mercato, ma non sappiamo, non ci vuole esprimere sbircia, il proposito. Sbircia gli appunti, sbircia... Sì, ma eravamo proprio nella sala del comando, nella stanza che hanno ospitato... Insomma, t'hanno inserito nel board, Fabrizio, quindi la prossima domenica parlerai come voce ufficiale. Beh, intanto ci accontentiamo dell'ottima corrispondenza che arriva da Roma per quanto riguarda il tabellino, i 21 punti di Gigi D'Atomo, ormai sono un'abitudine in casa Acea, i 12 di Taylor e Tambone, oltre ai 18 minuti alla difesa, aggiunge anche 5 punti col 100% al tiro, 1 su 1 da 2, 1 su 1 da 3 punti. In casa Scavolini Scavolini, 20 punti per Barbur, 13 per Stipcevic, ma insomma è una Scavolini, 8 per l'ex di turno Crosariol, è una Scavolini quella di Markowski che quantomeno lotta e ha anche qualche risorsa in più per provare a fare di meglio. Dicevamo, allora, rinascita un po' metropolitana nella giornata, intanto 349-238-6666 se volete scriverci sms e qualche domanda poi per i nostri commentatori. Rinascita metropolitana allora con Milano che passa a Caserta, 78-69 nel tabellino dei milanesi, spiccano i 21 punti di Langford, i 12 di Burussis, i 18 di Ayrton, e considerate che Langford e Ayrton in due sommano uno straordinario 19 su 20 ai tiri liberi. Si vede un buon Radosevic esordiente di ritorno, 4 punti e 12 minuti e anche tanta duttilità, fisicità in difesa, e soprattutto si vede la regia di Marcus Green, 8 punti, 4 assist, e anche quella di Bremer che pure però rimane ancora a quota 0 in 13 minuti, giocatore da ritrovare. Allora, passiamo subito da Carmelo Prestisimone, perché fra poco sentiamo un'intervista che ha realizzato con Sergio Scariolo. Però Carmelo, sei sceso dopo nel pomeriggio in Lega 2 a Scafati e so che è un ospite altrettanto importante. Buonasera. Ciao Dario, buonasera. Eh sì, l'ho strappato Gianmarco Pozzecco, allenatore di Capo d'Orlando, l'ho strappato, sembrava una pop star qui a Scafati, davvero, insomma, preda anche di ragazzino, Gianmarco, possiamo dire, insomma, oramai sei gettonatissimo. Non so, 18 anni. Ecco, mi raccomando, rimaniamo nel limite della legalità, soprattutto perché se no qua già di qua ce ne abbiamo tanti. Andiamo al basket, vai. Allora, Gianmarco, insomma, tra l'altro tu sei in perfetta forma fisica, però veramente, guarda, hai perso, io ti ho visto, sei un allenatore molto fisico, hai perso dei chili, guarda, per questa partita vinta al supplementare qui a Scafati contro una signora squadra, seconda in classifica, 80-75, sei riuscito a cambiare faccia a questa Capo d'Orlando, a cui tieni tanto. Ma guarda, la prima cosa che mi preme dire è che è stata una bella giornata di sport. Parto dal presupposto, perché per come la vedo io, è una cosa importante, è una cosa da sottolineare, la partita bellissima, Cardio Parma, prima vinta da noi, poi un tiro di Mason, ha ribaltato il punteggio, siamo andati sotto di due, una manciatissima alla fine, poi c'è stato il pareggio di Mason all'ultimo secondo, e poi nel supplementare abbiamo vinto una partita gettando il cuore in campo, e questo non può che rendermi assolutamente soddisfatto, perché porto al presupposto che, al di là di tutti i tatticismi, e i miei giocatori, devo essere sincero, oggi veramente sono stati da questo punto di vista molto bravi. Mi hanno messo in difficoltà subito Rosley, che è un giocatore di punta della Gimova Scafati, e poi ho detto che secondo me le partite si vincono così. Lo sport, chi ha cuore, chi ha mentalità, chi ha voglia di superare l'ostacolo, ce la fa quasi sempre. Playoff possibili, ci credi? Io ho un presidente che è forse più folle di me, però è una persona a cui sono estremamente legato, perché mi ha dato due volte la possibilità di vivere delle emozioni fantastiche, la prima finendo la mia carriera dopo un anno, la seconda iniziando la mia carriera nella Pro, e lui ci crede, io non posso fare altrettanto. Sono convinto che questa squadra abbia la possibilità comunque di giocarsela. Poi nello sport è importante provarci, non è sempre vincere. Non ho una mia filosofia tutta particolare. La cosa che devi fare è buttare il cuore in campo. Poi secondo me spesso se fai così vinci, ma se perdi e devi sempre stare, le cose secondo me funzionano bene allo stesso modo. Mario, hai domande? Per il Pozzo solo un applauso, anzi no, gli chiedo solo proprio 30 secondi, Gianmarco, è un unicum questa esperienza a Capo d'Orlando, oppure ormai ti sei convinto di poter fare pure l'allenatore? Guarda, io sono uno che non si prende troppo sul serio, non ci sto pensando, la cosa a cui sto pensando è a far felici i miei figli, ne ho 12, figa ragazzi miei, è una fatica. soprattutto non, allora non ti fare esonerare, che qua c'è lo stipendio che è più importante, visto la famiglia numerosa. Per mantenerli, sono contento, vedremo. Bene, allora intanto in bocca al lupo e grazie a Carmelo Prestisimone. Allora Carmelo, io intanto ti ringrazio. Allora adesso andiamo con le informazioni sul traffico e poi torniamo con l'intervista che ci hai consegnato a Sergio Scariolo subito dopo questa bella vittoria di Milano a Caserta. Palla spicchi. Allora, prima dell'intervista del nostro Carmelo Prestisimone a Sergio Scariolo, un rapido sguardo al tabellino della capolista Varese che batte Brindisi 83-71, solita buona prova di Brian Dalston, 15 punti e 7 rimbalzi, Polonara sfiora la doppia doppia, 9 punti e 10 rimbalzi e si rivede, poi 14 punti di De Nicolao, 13 di Green, 13 di Eric Rush e si rivede anche in campo per 4 minuti Adrian Banks, segno che il recupero dall'infortunio procede secondo i piani e in panchina senza entrare in campo anche EBR. Per quanto riguarda Brindisi non bastano i 18 punti di Robinson e i 16 di Gibson, la squadra di Bucchi paga sicuramente le 21 palle perse. Il tabellino di Sassari Biella 72-100 per i sardi di Sacchetti e a questo punto la panchina di Cancellieri è sempre più traballante, da notare 20 punti di Travis Diner, i 12 di Isley con 15 rimbalzi, Igneschi 19 punti, 11 Drake Diner e Thornton 17, insomma solita splendida distribuzione per quanto riguarda i sardi. Per quanto riguarda invece Biella si salva solo Jurak, 17 punti e 12 quelli di Rocesti. Montegranaro Avellino al volo 95-71, non basta ai campani il ritorno in panchina di Pancotto al posto di Tucci, ben 5 uomini in doppia cifra per quanto riguarda i ragazzi di Recalcati, 17 per Barnes e 16 per Daniele Cinciarini, 2 su 2 nelle triple, per Avellino 12 punti di Shakur, altrettanti di Kaloyan Ivanov e 16 e 17 anzi per Jeremy Richardson. Allora, ve l'avevo promessa, subito spazio a Sergio Scariolo dopo la vittoria di Milano a Caserta, al microfono del nostro Carmelo Prestisimone. Penso che il vero punto di inflessione è stato quando il nostro secondo quintetto, dopo un inizio difensivo molto freddo, molto, molto blando, di quelli che hanno cominciato dall'inizio, ha cominciato a alzare l'aggressività, l'intensità, a mostrare il cammino della difesa come percorso da seguire per vincere. Dopodiché anche gli altri, ripeto, quelli che hanno iniziato in maniera così poco concentrata, poco intensa, hanno preso questa strada e devo dire la verità che loro proprio nella fine del secondo e all'inizio del terzo quarto hanno poi permesso alla squadra di prendere quei 6, 7, 8 punti di vantaggio che poi in qualche modo con qualche ritorno della Juve e qualche immediata riaccelerata nostra abbiamo tenuto fino alla fine. La gestione, il playmaking di Green bene, Radosevic anche lui insomma sotto canestro ha fatto un lavoro oscuro interessante e oggi hanno aiutato un po' tutti, chiaro che sono giocatori nuovi, sono un pochino più sotto osservazione, sotto la luce dei riflettori, però devo dire la verità che lo spirito che ci sta animando nelle ultime settimane, adesso pian pianino si comincia a vedere anche in partita finalmente a livello di muovere la palla, di passarcela, di difendere tutti di più, aiuta poi anche che le individualità possano brillare un po' di più, quindi direi che il cammino è quello di giocare di squadra, di difendere, di provare anche a correre un po' di più e stiamo riuscendoci pian pianino a creare situazioni di contropiede un pochino più facili, chiaro che dipende molto dalla cattura dei rimbalzi, diciamo dopo il primo quarto e soprattutto nel secondo tempo abbiamo equilibrato bene il discorso dei rimbalzi difensivi e questo ci ha permesso di creare le opportunità di tiri facili in contropiede. Questo Sergio Scariolo, allora 6 minuti finali per i nostri commentatori, ma Stefano Valenti ci racconta soprattutto questa vittoria in volata 93-92 di Cremona a Bologna. Stefano, crisi nera per le Vunnere, buonasera. Sì, cioè, buonasera, sesta sconfitta consecutiva, finale in volata è vero, ma Cremona ha guidato praticamente per quasi tutta la gara anche con grande serenità, soprattutto perché ha avuto un attacco veramente superiore, ma insomma è la seconda domenica consecutiva che capita in trasferta, perché comunque Cremona aveva segnato 92 punti a Biella e oggi ne ha segnati 93 a Bologna. Il finale è stato punto a punto perché una tripla di Poeta aveva portato Bologna in parità a 2,55 dalla fine, poi però Cremona ne ha segnati 3 nel giro di un minuto, due con Getson, che obiettivamente ha giocato la prima partita da italiano, quindi magari anche eleggibile per la nazionale, poi ce n'è stato uno dei Chase, il nuovo arrivo che ha debuttato giusto oggi, ed è stato anche l'uomo che ha segnato il canestro del sorpasso a 22 secondi dalla fine, più uno, ultimo possesso Bologna, Poeta ha penetrato, ha dato, cercato di far arrivare la palla a Gigli, Gigli non l'ha tenuta, insomma, era quattro giocatori in mezzo metro quadrato, l'impresa non è riuscita. C'era un po' di traffico. Ma ribadisco con pieno merito. Eh sì, Stefano, c'era un po' di traffico là sotto, tra l'altro Lance Harris piazza anche i 28 punti in 39 minuti e quindi, insomma, una Cremona che guadagna anche una nuova dimensione offensiva. Grazie Stefano Valenti. Carlo Genta, ben trovato, l'appuntamento come d'abitudine, lo ricordo a tutti i naviganti e gli appassionati non solo di basket, è domani ore 14 tutti convocati. Intanto però c'è da commentare, Carlo, un Milano che comincia a giocare a pallacanestro. Sì, una Milano che comincia a giocare a pallacanestro, Dario, io credo che a febbraio conosceremo con maggiore precisione i valori che ci sono in campo, perché adesso lavoro in corso per Milano soprattutto, ma per tutte le grandi. Siena è 2, 3, 4, 5 passi avanti agli altri, abbiamo visto anche l'altra sera contro l'Olympiacos, è riuscita a costruire equilibri di squadra che Milano ancora non ha. Certo, oggi vincere a Caserta è un altro segnale, è un primo segnale importante dopo la grande paura, perché non avesse vinto domenica scorsa a Brindisi sarebbe stata fuori dalle Final Eight di Coppa Italia di casa, e lì sarebbe stata veramente una specie di tragedia sportiva. Tra un po' capiremo tutto, Varese tiene, Cremona ci permette di comprendere ancora di meno, come diceva Stefano Valenti, quanto vale la Virtus Bologna, e direi Sassari, viaggia a velocità di crociera. È tutto abbastanza complicato da capire fin qui, però io credo che che febbraio sarà il mese decisivo, quantomeno per comprendere gli equilibri delle forze in campo, Dario. Assolutamente d'accordo, Carlo, e anche perché le Final Eight rappresenteranno anche il modo di valutare le squadre negli scontri diretti, e quindi assaporeremo già l'idea del playoff. Grazie Carlo, domani appuntamento, lo ricordo, alle 14 tutti convocati. Chiusura con Flavio Tranquillo, ben trovato Flavio. Buonasera. Beh, allora, domani per Siena stuzzicante questa sfida con Reggio Emilia, perché torniamo sempre sullo stesso punto, ma bisogna vedere sempre come risponderà Siena, che vola in Eurolega e che ha forse scelto anche di pagare qualcosina in questo momento in campionato, no? A fronte di una campagna europea veramente da 5 stelle. Non so se ha scelto, però di certo queste vittorie europee sono straordinarie, però possono essere pagate anche in una partita come quella contro Reggio Emilia, posto che tra giocare a Siena e giocare a Sassari c'è differenza, quindi comunque è una partita diversa rispetto a quella di campionato persa di 30 a Sassari, dove anche il fattore campo ha avuto il suo ruolo. Assolutamente, poi si pagano di testa anche certi sforzi. Intanto Cantù avanti di 4 all'intervallo a Venezia, 44-40, una giornata che ha allungato un po' la classifica, no? Perché le big cominciano a conservare il pronostico. È bella anche questa scelta di Varese, Flavio, di non intervenire sul mercato a fronte anche di alcuni infortuni eccellenti, quasi che Vitucci abbia voluto dare ancora di più fiducia a un gruppo che sta rispondendo alla grande. Beh, mi sembra decisiva, mi sembra la cosa da fare. È ovvio che è possibile farla quando gli infortuni sono in termini di settimane o al massimo di singolo mese, non si può fare quando magari un infortunio ti priva di una pedina chiave per 6 mesi, però farlo è un segnale molto importante. Oggi è rientrato un pezzo, diciamo così, di Banks, però De Nicolao ancora oltre i 30 minuti. Sono tutte cose che alla fine pagheranno grossi dividendi per Varese. Assolutamente, e dividendi che verranno incassati molto probabilmente nelle Final Eight, staremo a vedere, ancor più probabilmente nella post season. Grazie Flavio, ci ritroviamo domenica. Bye bye. Grazie a Flavio Tranquillo, grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Giorgio De Luca in redazione. Palla Spicchi torna chiaramente domenica alle 20:30. Io rimango qua a farvi un po' di compagnia per lo sport serale di Radio 24.